A proposito di dimissioni, era il 1967 quando mi dimisi per la prima volta da qualcosa. Collaboravo all'organo di stampa di un grande partito cui peraltro non ero iscritto. Mi trasformarono un articolo sull'antimilitarismo, me la trasformarono in una monca lettera al direttore. Mi dimisi appellandomi alla redazione, sicuro del fatto che il mio gesto avrebbe contribuito ad aprire un dibattito di fronte al quale il direttore avrebbe poi finito con il cedere. Sarebbe stata una conquista importante, non solo per me, ma per tutta la sinistra antiautoritaria italiana. Due anni dopo, nel 69, con il qui presente e tanto caro Carlo Oliva, ci dimettemmo insieme dal partito Gruppuscolo in cui eravamo iscritti. Eravamo ai vertici, anche per mancanza di altri iscritti, comunque eravamo ai vertici di quel partito Gruppuscolo e le nostre dimissioni avrebbero dato fastidio e come all'allora segretario nazionale che, infischiandosene di ogni regola democratica, alla faccia del programma democratico per il quale diceva di combattere, la faceva da autentico padrone, soppiantando nelle decisioni e la base e gli altri dirigenti. Con le nostre dimissioni avremmo suscitato un dibattito dal quale proprio non si poteva immaginare come ne sarebbe uscito. Avremmo imposto una sterzata decisiva per la nascita nel nostro paese di un'organizzazione politica nuova che avrebbe potuto coagulare le disperse e spantegate forze della sinistra. Nel 1970 mi dimisi da un quotidiano romano al quale collaboravo. Lo feci con una lettera al direttore in cui dimostravo che uno dei redattori era un avventuriero reazionario e oltretutto un falsificatore. Questo redattore aveva manipolato un mio articolo per farmi dire ciò che non dicevo affatto e poi accusarmi di averlo detto. Lì ero in una botte di ferro, come si dice, e le mie dimissioni avrebbero certamente portato al suo allontanamento. Nel 1971 mi capitò il caso di quella benemerita istituzione milanese della sinistra storica, di cui, lo sa Dio perché, non lo ricordo, comunque ero diventato dirigente. Il segretario nascostamente, sperando che il consiglio direttivo non lo venisse a sapere, aveva sciaguratamente discriminato un gruppo della sinistra men storica, non concedendogli locali per le riunioni, facendo in modo che altri non glieli concedessero, danneggiandoli in ogni modo con un odio degno di miglior causa. Io me ne accorsi, denunciai la cosa, mi dimisi con una lunga e documentatissima lettera tramite la quale, impostando un discorso, per superare le divisioni, avrei anche ottenuto come minimo la testa del settario in questione. Nel 1976 mi dimisi dal sindacato. Ero stufo di partecipare a combattutissime riunioni fino a notte alta e scoprire il mattino dopo che le decisioni erano già state prese a Roma e consegnate alla stampa prima ancora che la mia riunione avesse inizio. Scoperte un paio di queste truffe a danno della base, scrissi la mia lettera al segretario nazionale facendo nomi e cognomi, evidenziando tempi, modi e circostanze, affidandomi al suo intervento perché rimettesse le cose a posto. Nel 1983 mi sono dimesso dalla polisportiva. Mi rimaneva quella, dalla polisportiva in cui collaboravo come direttore tecnico, perché avevo scoperto traffici poco chiari nella compravendita di atleti. Avevo individuato i dirigenti che agivano nell'interesse proprio anziché nell'interesse della società ed ho allora denunciato il tutto al presidente. La denuncia l'ho fatta per tempo, a metà stagione, in modo che il presidente avrebbe potuto fare Piazza Pulita in tempo per ricostruire insieme, su nuove basi, una società all'altezza dei compiti che l'attendevano per la prossima stagione. Le mie dimissioni lo avrebbero facilitato ad intervenire con mani più libere e con maggior radicalità, no? Bene, anche se devo confessare la mia sorpresa, in tutte queste occasioni nessuna fatta salva, le mie dimissioni furono sempre accettate. I dibattiti che avrebbero dovuto innescare può anche darsi che ci siano stati, ma non ne ho mai potuto sapere esattamente lo svolgimento, perché nessuno poi da quel giornale o quell'associazione o quell'istituzione mi ha più richiamato. Diciamo che il direttore ha continuato a fare il direttore fino a morire di vecchiaia, il redattore reazionario ha fatto carriera, il segretario del partito gruppuscolo è diventato una star del governo e dell'opposizione al contempo, il sindacato non ha chiuso affatto i battenti e i dirigenti ladri hanno continuato a dirigere rubando. Non so che cos'ho. Forse scrivo lettere di dimissioni troppo convincenti, forse mi faccio stimare al punto che nessuno vorrebbe contraddirmi, forse al mondo le cose, ecco, sì, forse al mondo le cose vanno diversamente da come vorrei che andassero, ma fatto sta che a me le dimissioni le accettano sempre. L'importante è, l'importante è non sentirsi un perseguitato o non darlo a vedere. Un giorno le raccolgo tutte queste lettere di dimissioni e ne faccio un libro. Il titolo c'è già, anche se vagamente può ricordare Silvio Pellico. Le mie dimissioni. 24 years ago I come into this land, the son of a woman and a man who lived in strife. He was tired.